Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, colleghi e colleghe, vorrei anche inviare un saluto. Senti qui, Oscar. Senti. Un saluto molto sentito a Celeste Costantino, la nostra collega che ha fatto una bambina che si chiama Bianca e che sta bene. Bene. Un saluto a mamma e bimba. E papà? Oscar. Come dice? Papà? E il papà non è parte in causa in questo caso. No, come? Allora. Come? Scusate, Oscar. La bambina è stata fatta da Celeste Costantino, è nostra collega, noi ci rivolgiamo a lei. È essenzialmente a lei. E effettivamente è stata fatta dalla mamma su questo. Il papà non è parte in causa, Oscar. No, ma che vuoi che tu sei parte in causa? Cioè, tu vuoi, pensi che io voglia dire una parola sul presidente della Camera? No, non la dico. Ma no, nel mio mondo, mi permetto di dire, il presidente della Camera attuale non è parte in causa. Vabbè, ma questo politicamente. No, ragazzi, non lo è. Cioè, no. Io le disconosco la. Quindi, nel mio mondo non esiste. Ma no, ma povero papà. Che no, non... ma non, che... neanche, non ci entro nel merito, è evidente che si tratta di una persona, evidente. Siccome però non voglio incorrere in nessun tipo di reato istituzionale, no, visto che il presidente querela i giornalisti, visto che il presidente querela i giornalisti, anche vabbè, questa, ma qui stiamo parlando caratteristica, di una, ma appunto una cosa, io non esprimo così giudizi, è evidente, si commenta da solo. Vabbè, però io penso di aver non avuto da sola, lo dico a posto, da solo, cioè non escludo il di presidente poter... della casa. Si io, commenta da vabbè, solo. Speravo... Perché l'ha pure ripetuto a chi le ha fatto notare. Quindi, scienza e coscienza, deliberata insistenza. Capito? Comunque, ma del resto, chi vuoi fare? Non vogliamo fare una rivoluzione dei papà dicendo che anche loro hanno un piccolissimo ruolo, è un piccolo marginale. Lo so che in sala parto ci vanno le donne, anche i papà, ma sono solo lì inutili a rompere le scatole. Ma piccolissimo ruolo, ma tu nei tuoi due figli un piccolissimo ruolo, parte in causa. Mi rifiuto di dedicare un secondo al presidente della Camera, cioè mi rifiuto. Dai, Santi, buongiorno, ecco, i Santi. Ci vorrebbe santa pazienza, per così santa dire, per la lingua a posto di fronte. Poi questo sorrisetto. No, però scusa, hai detto che non ne parli. Ma non sto parlando ovviamente figuriamoci, santa pazienza benedetta. Allora, io oggi sono i protomartiri romani. Io quando ero piccolo dicevo, ma cosa sono i protomartiri? Non capivo. Perché tutti quelli che muoiono nella prima grande persecuzione, che la prima grande persecuzione è storicamente quella all'indomani del 19 luglio del 64 d.C. Cosa era successo? L'incendio di Roma, Nerone, e quella è la, inizia dal 64 al 67 la prima grande persecuzione, quella appunto in cui cadono anche i due che abbiamo ricordato ieri, Pietro e Paolo, perché a Roma vengono decapitati e martirizzati sotto questa che è la prima grande persecuzione. Poi ne seguiranno tante altre, e quindi le centinaia, anzi le migliaia di martiri di questi tre anni di eccidi, perché fino a quel momento non si procedeva a perseguitare i cristiani, ecco, si ricordano oggi il 30 giugno. Le coincidenze in questa data della storia, io ne ricordo solo una, perché ha avuto uno sviluppo poi tragico in Europa e nel mondo, perché oggi, cioè nel corso dell'intera giornata e poi nella notte del 1934, ci furono tutti i preparativi, e poi nella notte venne l'intervento, quella che si chiama nella storia tedesca la notte dei lunghi coltelli, notte dei lunghi coltelli, in cui Hitler con le SS, che aveva negli anni precedenti creato proprio per fronteggiare lo strapotere all'interno del partito delle SA, delle camicie grigie di Roma, intervenne, li fece arrestare e giustiziare, ma insieme fece giustiziare alcune centinaia di oppositori suoi, personali, di testimoni, di suoi problemi e probabilmente anche di un assassinio, eccetera, eccetera. Vedo che in questi giorni ci sono tutti appassionati della storia di Hitler per il docufilm di Michele Santoro. E quella nottata è stata, quel giorno 1934, è stato il giorno in cui Hitler davvero si è liberato di chi nel partito rischiava di contare più di lui, e ci è andato per le spicce. La storia poi è andata come è andata. Gli auguri tra chi compie gli anni, vediamo un po'. Io ne ho scelto Silvio Orlando perché comunque è un attore che mi è sempre piaciuto, Eleonora Bagnato perché è bravissima, ti è sempre piaciuta? No, ma è bellissima, ballerina, è una bellissima donna, ma che vuol dire? Però, e sta andando anche oltre il fatto di essere un'étoile, perché anche come attrice se non sarà cava meglio di quanto immaginassi. E poi io voglio ricordare Ralf Schumacher, perché è il fratello ovviamente che ha condiviso per 16 volte il podio a Formula 1 con Michael, ma perché solo anche per mandare oltre che a lui un pensiero che ho sempre per il fratello, pensando a come sta. E, sì. Ecco, la gloria dei grandi a volte convive nella vita con la sofferenza, la paralisi, l'assenza di una vita piena, e questo io penso che ci dobbiamo pensare spesso. C'è da dire, Oscar, che la gente, gli ascoltatori, tutti vogliono commentare sempre il tema dell'immigrazione, e se volete il numero di telefono 800 24 0024 è quello. Io personalmente sentirmi dare delle roe da Juncker, beh, me ne faccio un baffo, cioè me lo prendo, non credo che gli italiani vogliono appuntarsi al petto la medaglia dell'eroe. Vorrebbero un'Unione Europea che forse non fa come Macron, che prima dice grande solidarietà, il giorno dopo dice beh, ma l'80% di quelli che vengono sono migranti economici, noi non li vogliamo. Che l'illusione italiana, adesso arriva Macron che risolve in Europa, prima per l'Italia era un'illusione. Forse però è un'illusione anche quella di dire chiudiamo i porti. No, si è io capito. Su questo non sono d'accordo. Non so, oggi il viceministro Giro in un'intervista al viceministro degli esteri dice ma possiamo fare i blocchi navali, come stato, ma chiudere i porti dal punto di vista del diritto internazionale non si può tecnicamente. No, si può, e come? Perché ci sono, ripeto, le clausole della Convenzione internazionale del diritto del mare, del protocollo di Amburgo, soprattutto, che è quello che disciplina il diritto internazionale di quale è il porto sicuro di chiunque salvato in mare. Quindi si può. Io sono preoccupato di un'altra cosa, ti dirò, perché quando stamattina ho letto a pagina 2 della Stampa che all'interno del governo ci sono appunto i primi dubbi, le prime perplessità, sia pur travestite da argomento tecnico come quello che riportavi tu, per ragioni di scontro interno del PD, e allora mi sono detto però allora va bene, Macron non ci dà una mano, però non ce la diamo neanche noi, perché se adesso lo scontro del PD, perché lo sa che questo fine settimana ci sono due kermesse, Renzi da una parte, eccetera. Però su questo, però cosa parte dei porti, almeno per favore cerchiamo di essere noi, io credo che il governo italiano debba essere pronto a farlo, invece, davvero. Ma pare che sia annunciato, cioè se mercoledì prossimo a Tallinn ministri dell'interno non prendono un accordo, l'Italia è pronta a farlo. Di certo, vabbè, chiamateci su questo, perché il tema è lì. Però prima dobbiamo affrontare anche un'altra vicenda che è su tutte le prime pagine dei giornali. La vicenda che coinvolge il cardinale George Pell, australiano, 77 anni, accusato di reati gravissimi, anche se lui dice sono accuse assolutamente che dimostrerò infondate, abusi su minori. È un uomo che conta moltissimo in Vaticano, è il numero 3 di fatto del Vaticano, gestisce le finanze del Vaticano. Con noi c'è la professoressa Lucetta Scaraffia, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno. Volevo solo specificare che il cardinale Pell non è il numero 3 del Vaticano. Così considerato, no. Diciamo. No, perché il numero 3 semmai il sostituto, Becciu, è considerato il numero 3 del Vaticano. Ecco. Vabbè, diciamo che come numero possiamo 4, considerare? Numero 4, va bene, dai, lo tiriamo giù di, di una graduatoria. Cominciamo a tirarlo giù di uno scalino. Di un gradino, sì. Le accuse ovviamente sono gravissime. La linea tenuta dal Vaticano, cioè fino a prova contraria sono tutti innocenti, però il ruolo non ti dà un senso di, come dire, di protezione. È la linea che vede anche in questa situazione tenuta dal Papa? Beh, sì, nel senso che il Papa sapeva da tempo, come tutti sapevano da tempo, che c'erano delle indagini in corso sul cardinale Pell, il quale non solo è accusato di aver nascosto, insabbiato, risolto anche male, diciamo la verità, alcuni casi di pedofilia, male nel senso con poco rispetto per le vittime, ecco. E come hanno fatto altri, ecco, quando era sacerdote, cose sicuramente brutte. Ma ha un aggravante, cioè che è lui stesso accusato di avere compiuto atti di violenza su minori. Ora, questo è era un'accusa da cui il cardinale Pell si è sempre detto innocente, e finché non c'è la condanna, neanche finora non c'era neanche la chiamata in giudizio su questo, il cardinale Pell è stato presunto innocente. Adesso che c'è stato, diciamo, l'inizio del chiamato giudizio, il cardinale Pell ha chiesto un congedo, che è una formula, diciamo, molto benevola per dire che gli che è stato sospeso, dal suo incarico, ed è torna in Australia per affrontare il problema, la battaglia. Scarpia, posso fare una domanda a Giannino? Sì. Quando nelle ricostruzioni che sono, e in alcuni libri che sono usciti dedicati anche alla vicenda del cardinale, molte volte la domanda ricorrente è stata: quando il Papa gli ha affidato l'incarico, sapeva bene ciò che nelle indagini che affondano le radici, si sono sviluppate per anni, della Commissione Reale in Australia sull'argomento pedofilia, e che riguardano le responsabilità tempo fa del cardinale, conosceva tutto, eppure la nomina è avvenuta. E naturalmente uno pone l'interrogativo, ma non sa darsi una risposta. Questo interrogativo, insomma, dal suo punto di vista, è degno di essere sollevato, cioè sin dall'inizio, oppure no? Guardi, è degno di essere sollevato. Io non so la risposta, naturalmente. Le faccio due ipotesi per spiegarmi questa cosa. Uno, che non gli sia stato dato il dossier completo, perché lei deve sapere che, come sappiamo, al Papa, dice. Al Papa. Sì. Quando il Papa era stato appena eletto, quando ha nominato Pell, sì, perché gli era stato chiesto, come ben ricorda, di riformare le finanze, c'erano stati molti problemi. E come no. E quindi gli è stato detto che il cardinale Pell aveva una buona fama di amministratore. Il cardinale Pell era l'unico cardinale australiano, a un certo punto, siccome la Chiesa ha giustamente anche sempre il tentativo di rappresentare la sua dimensione mondiale, di mettere cardinale un po' di tutto, e questo Papa, come lei sa, al posto degli italiani tende molto a mettere, sì, cardinali di altri paesi per dare aprire a questa dimensione mondiale. Quindi, buon amministratore, ci mancava un australiano. Se non viene avvertito di questi processi, può essere benissimo che la sua e questa, diciamo, è l'ipotesi A. L'ipotesi B è un'altra, che spiegherebbe molte cose, anche come spiega delle cose anche molto pesanti, più che questa di Giovanni Paolo II, se permette, che in qualche modo Giovanni Paolo II, come si ricorda, non ha mai accettato di considerare vere le accuse sul fondatore dei, sì, legionari, sì, che è molto più grave ancora, perché lì erano violenze ripetute per anni e anni, tutta una cosa così. Perché i sacerdoti che sono vissuti in paesi dove c'è stata una dittatura anche pesantemente anticlericale sono abituati a sentire accusare i preti di pedofilia, per false accuse di pedofilia, per farli fuori. Però l'Australia. Lo so che l'Australia non è niente di quello, però a loro è rimasta l'idea, e anche i colonnelli, l'Argentina dei colonnelli, questo accadeva: per far fuori un prete pericoloso lo accusavano di pedofilia. Allora sia Giovanni Paolo II che Papa Francesco si portano dietro, sono portati dietro la loro esperienza, sì, che era di immediatamente di dire sarà falsa, sarà l'accusa, falsa perché l'accusa, è per farlo fuori. Naturalmente in Australia questo non accade, lo sappiamo tutti. Però la tendenza a pensare che sarà per star male, cioè che siano accuse, diciamo, sì, così manipolate per far fuori un prete. Senta, lei dice che Papa Bergoglio ha la tendenza a scegliere più gli stranieri. Questo, racconta almeno tutti i giornali, ha creato dei malumori proprio per la gestione anche muscolare, viene definita così, sulle finanze, molto anglosassone del cardinal Pell rispetto al, come dire, all'anima, al corpo italiano anche dei cardinali. Quindi ci sono anche questioni perché lui ha rivendicato dei poteri a sé sull'Aps, no, l'amministrazione apostolica. Ci sono anche questioni di regolazioni interne di conti, diciamolo brutalmente, tra italiani e stranieri. È possibile, io non glielo so dire questo, è possibile però. È possibile perché lì c'erano dei poteri molto così poco controllati da moltissimi anni, che si sono visti, uno che è arrivato con un modo un po' da ranger, hanno detto, no? Un po' brutale, sì. Ha detto fuori conti, fuori qua, fuori là. Probabilmente sarebbe servito un passaggio un po' meno forte, un po' meno violento. Accusato anche lui, tra l'altro, di spese mica male. Sì. È stata questa, è stata. Beh, lui si di... è dato un bello stipendio, si è fatto una bella casetta. Però... Ma, io sentirlo dire di un cardinale, non lo so, mi... Come dire, si è dato un bello stipendio, una bella casetta. Comunque, al di là, viaggi in prima classe, questo raccontava nel giornale. Noi dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che io sono abituato di solito quando parlo, perché ho visto delle carte, ho approfondito qui, carte, è tutto derelato, e quindi io ho delle difficoltà a esprimere opinioni, tranne che ho letto bene i documenti australiani. Citato dal libro di Fittipaldi, e lì mi pare che le indagini siano serissime, altro che. Ma detto questo, sulle finanze vaticane c'è un punto, Alessandro e professoressa Scarafia. Anni e anni, pontefice dopo pontefice, questo problema, che insomma nelle cronache italiane internazionali e dai tempi dello IOR, Marcinkus, il Banco Ambrosiano, stiamo parlando di decenni oramai. Ecco, purtroppo non è una bella prova. Questa qua, che conosco meglio, non è affatto una bella prova. Che pontefice dopo pontefice non si riesca a uscire fuori di un quadro di regole adottate con rigore, riconosciute dalla comunità finanziaria internazionale, da chi la regola. Sì. Perché i tentativi, possiamo risalire Ettore Gotti tedeschi, qua... Chi c'era prima di lui? Beh, adesso che... è saltato anche adesso una figura importantissima. Ecco, per questo ti dico, ecco, questa vicenda qua, voglio dire, sarà un caso o sarà il destino o sarà la mano della provvidenza? Nei cardinali che vengono nominati oggi ce n'è uno, quello del Mali, che ha un'indagine a suo carico per conti per milioni in Svizzera. Allora, c'è qualche cosa su questo, professoressa Scarafia? Non lo so se sia Satana dietro l'angolo che si diverte a dire il denaro sterco del demonio, non riesco a farvelo chiarire, ma dopo decenni, che impressione ha lei? Ma intanto ho l'impressione che sì, come è evidente, attraverso lo IOR è passato del denaro che non doveva passare, questo ormai è appurato. È difficile anche dire d'ora in avanti basta, improvvisamente, richiede un processo un po' lungo, cosa che è stato messo in atto. Io sono sicura che per quanto riguarda lo IOR, come sa, c'è un adeguamento ai criteri internazionali che è in corso di realizzazione totale, mentre invece per quanto riguarda l'APSA ed altre finanze vaticane, il Vaticano è un piccolo paese dove da tantissimi anni non ci sono controlli praticamente. Ecco. E lì effettivamente quando non ci sono controlli non è che il Vaticano, sia laici che sacerdoti, nessuno è un angelo. Fare i controlli dopo tanto tempo non è facile e bisogna anche lì avanzare un poco con i piedi di piombo, probabilmente pensionare un po' di gente corrotta, cioè, non è facile per nulla. Vabbè, detto insomma... questo, però io mi domando anche una cosa, ma allora se effettivamente era già sotto processo, no, sotto processo non era sotto processo, ma se già c'erano le indagini in corso in Australia di Pell quando è stato nominato, ecco, non è che è stato nominato proprio perché era una figura che poteva essere debole per queste indagini, per esempio, non da parte del Papa, sto dicendo. Da chi gliel'ha proposta? Ma è legittimo l'interrogativo? Metterli una persona che poi, questa parola, però, tra virgolette, ricattabile, cioè non può muoversi più di tanto. Infatti, perché, infatti, cioè che poi lui si è mosso lo stesso, perché poi lui si è mosso lo stesso, infatti, ovviamente. Certo, il Papa, sono sicurissima che il Papa non l'ha fatto per quello e non l'ha fatto, io penso che la cosa più probabile è che non fosse stato informato di tutto. Uno che arriva dall'Argentina, che non ha mai avuto rapporti con la curia, non è che può sapere tutto. Cioè, dipende dagli altri, non è una persona che può da solo scoprire tutto, non è Nembo Kid. Intanto vedremo come va a finire questa vicenda. Noi come al solito la ringraziamo, professoressa sì. Lucetta Scaraffia, grazie per essere stata con noi. Grazie a tra voi, l'altro è editorialista dell'Osservatore Romano, quindi insomma conosce a fondo, conosce bene la realtà del Vaticano e ci racconta quello che è questo scenario. Insomma, però dice anche delle cose sferzanti su appunto il Vaticano. Ci sono persone corrotte, ci sono, allo IOR sono passate denari. Ma quello ormai è acquisito anche dalle indagini italiane che naturalmente hanno avuto molti ostacoli. Io sono molto colpito, detto la verità, perché questa vicenda della mancanza di trasparenza finanziaria e di gestione dopo decenni testimonia di qualche cosa che va al di là della mia comprensione, anche perché, ripeto, noi non stiamo parlando di strutture, non è, voglio dire, Deutsche Bank con pacchi di miliardi di euro di asset level 3 derivati complessi, non è così. Cioè, a noi ancora uno dei dissidi su cui Pell e il suo revisore generale dei conti Milone, che è stato mandato via questa settimana, ha avuto collapsa, e il fatto della permanenza lì di conti a persone che non dovevano averlo, cioè che la storia da cui si origina il tutto, no? Certo. Allora, se dopo decenni siamo ancora a questo, come vedi, cose elementari, non cose particolarmente complicate. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi 800 24 00 24, gli ascoltatori, il tema soprattutto è quello migranti, perché tiene banco un po' sui giornali, e ne parleremo, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. 8:46 minuti. Allora Oscar, c'è intanto Mariella da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Dica Mariella, eccoci. Ah, ok. È in diretta. Allora, niente, adesso mi chiedevo, perché io ho un'adorazione per lei, la sua leggerezza, la sua ironia, il suo buon gusto anche, no? Ma lei chi è adesso? Io sì, Alessandro Mina? Tu, Alessandro. Ok. Va bene, benissimo. Sì. No, mentre ho una certa non simpatia assolutamente per la Boldrini, effettivamente nessuna. E allora, perché questa mattina sono così irritata dalla storia del parto? Ma con chi irritata? Con questa cosa che stai sostenendo questa mattina, ma il papà. Ora, per millenni... Sì. Le donne sono sempre state tenute in secondo ordine assoluto, ma anche quando erano fondamentali. Perché l'Italia, ad esempio, è andata avanti durante il tempo della guerra, ho l'età per poterlo dire, durante il tempo della guerra, perché le donne facevano tutti i lavori degli uomini. Altro, anche le donne sono state... Chi lo mette in dubbio questo? Però sono sempre state in secondo ordine, e soprattutto comunque sono sempre in secondo ordine, anche quando hanno dei valori importanti. Cioè, il loro valore è sempre minore. Vogliamo dire che sono 70 anni, cioè io ero già nata quando ci è stato concesso il diritto di voto. Ora, perché il parto di fatto non è andare a prendere un caffè, il parto è una cosa, almeno io che l'ho fatto, veramente molto dolorosa e molto personale. Allora, se in quel momento dell'immediato parto si fanno gli auguri alla mamma e alla bambina, non credo sia così questa cosa. Ma perché ve ne risentite così tanto millenni ci avete trattato in Mariella, questo modo? Forse stiamo imparando purtroppo qualcosa dai maschi? Non è che io sia una Mariella, scusi, la questione non era l'aver fatto gli auguri è stata una cosa sacrosanta aver fatto gli auguri, è che quando qualcuno ha sollevato gli auguri al papà, il papà non c'entra in questa cosa. Ma il papà non c'entra nel parto, non c'entra fisicamente, però, certo che non c'entra, lo so anch'io, ma non è solo fisicamente, papà, anche come dolore. È come intervento a rischio comunque. Ma d'accordo, ma il papà avrà anche lui. Allora, io posso essere d'accordo con lei se non ne fate un caso. Ma non ne stiamo facendo un caso, abbiamo anche sorriso. Io l'ascolto tutte le mattine dalle 6 del mattino. Sì. Tutte le mattine alle 6 io sono sveglia e l'ascolto. Vabbè. Perché proprio mi dà piacere. Tra l'altro ho anche scritto, perché non sono molto molto... dispiaciuta prima di tutto che abbiano cacciato Minoli, che è una delle poche culture che ci sono lì dentro, e che tengano Cruciani, sono dispiaciuta dell'ipotesi che lei non ci sia e che venga Mariella, sostituito. Siamo partiti dal mai non vengo sostituito, non è stato cacciato Minoli, ma non lo so. Vabbè Mariella, siamo partiti dal parto della Boldrini, siamo arrivati a Cruciani. Io non... Comunque la ringraziamo per questo suo intervento sentito. Allora, Gaetano da Napoli, buongiorno. Buongiorno, io invece resto fedele a prescindere, quindi senti un intervento di prima, insomma, va bene. Volevo parlare dei migranti, sì. Ieri in televisione hanno dato i servizi in cui la nave della Guardia Civile Nazionale Spagnola, che ha sbarcato a Salerno i migranti, era tenuta in bella vista. Quindi questo, mi sono posto una domanda, cosa vuol dire questo? Che oggi qui, quindi non solo le ONG, ma anche navi ufficiali. No, Gaetano, ma qui questo però il giornalista deve ricordarvi le cose come stanno, perché a volte si scrivono paginate intere, ma poi l'ABC andrebbe sempre ricapitolato. E avete ragione voi, perché non è che dovessi dire... Allora, negli accordi, nelle regole sottoscritti con Frontex dei due dispositivi europei in atto nel Mediterraneo, uno dal 2014 e uno dal 2015. Primo, Triton serve anche a salvare e in teoria a contenere gli illegali che vengono tramite il mare dal sud del Mediterraneo, mentre invece il secondo EUNAVFOR-MED serve al contrasto delle reti criminali. In entrambi i casi le regole prevedono che l'unico porto sicuro è quello in porto italiano per eventuali migranti e profughi soccorsi e salvati. Quindi quelle regole lì vanno cambiate, non solo quelle dell'ONG, ma quelle regole lì, per quelle ci siamo rivolti all'Europa, perché noi dobbiamo chiedere il ritorno invece a quanto previsto alla Convenzione di Amburgo e alla Convenzione Internazionale dei Diritti del Mare, che dice no, perché le leggi internazionali sono chiare. Il porto di salvezza dove condurre chiunque sia salvato in mare è quello della zona di ricerca e salvataggio di pertinenza in cui è stato preso. Quindi, siccome sono 24 miglia quell'area, può essere la Tunisia, se siamo 24 miglia dalla Tunisia, Malta, eccetera, eccetera, e non automaticamente l'Italia. È proprio quello il punto. Sì, anche i dispositivi europei le portano qua, ma lo abbiamo accettato noi. Noi per tanti anni abbiamo accettato di fare l'eccezione umanitaria, questo è il punto. C'è Marco da Trento, buongiorno Marco. Ciao, buongiorno, ciao Alessandro e ciao a tutti quanti di Radio 24. Io vorrei partire con una premessa e vorrei appunto dire che secondo me la maggior parte della gente, delle persone insomma, che vengono chiamate migranti, scappano per miseria, scappano perché scappano da guerre e su questo non ti piove. Penso che sia una cosa scontata e credo così, che la maggior parte delle persone, penso che tutte le persone andrebbero aiutate. Cioè, soprattutto dalla miseria, l'80% sono migranti cosiddetti economici, quelli che Macron non vuole. Quelli che Macron sinceramente non voglio nemmeno io, perché ma comunque, a parte questo, detto questo e premesso ciò, io vorrei capire quanto questo viene a costare allo Stato italiano, quanto l'Europa si aiuta, quanto soprattutto ogni lavoratore dipendente o autonomo, io sono un lavoratore autonomo e oggi pago la prima rata perché devo fare le rate sulle quali lo Stato italiano mi chiede gli interessi. Mi chiede anche gli interessi sull'acconto, cioè io acconto le tasse per il prossimo anno, siccome non ho da dargliele, mi chiede anche gli interessi sull'acconto, sui soldi che io gli presto. Vorrei capire quanto del 24% da commerciante pago di INPS, quest'anno tra INAS Arco, faccio l'agente di commercio, e con l'INPS pago quasi 30.000 euro l'anno. Vorrei capire quanti di questi soldi servono per pagare la pensione agli italiani che hanno costruito l'Italia, vorrei capire quanti di questi soldi vengono messi da parte per pagare la mia pensione e quanti soprattutto vengono utilizzati per pagare la sanità in Italia, che al giorno d'oggi è veramente peggio che andare non so dove. Io poi parlo da una provincia autonoma che magari sta meglio di Napoli, ma questo non significa assolutamente nulla, perché tanti mi dicono ma tu sei in provincia di Trento, voi state bene. Io sono stato male due settimane fa, ho avuto un problema di sifilea, sono andato all'ospedale, mi ha fatto pagare 50 euro di ticket, dopo 30.000 euro di tasse di INPS che vado a pagare Puzza e Masarco. Vedo mia nonna che ha lavorato 50 anni dietro un bancone di un albergo, prendeva 480 euro di pensione dopo 50 anni di lavoro. Sì, sì. No, ma non ci... ma insomma, però lei snocciolando tutti questi dati ci fa capire. Marco, che... dico solo questo: ci sono paesi europei, la Gran Bretagna, per esempio. La Gran Bretagna due volte l'anno arriva il rendiconto preciso e sono due fogli a quattro, molto ben fatto, quindi non è enorme, non è un volume, di le ripartizioni di dove viene speso, a che livello, tutto ciò che viene raccolto dal contribuente. Siccome oggi è una giornata tragica per noi lavoratori autonomi, per tutte le tasse che si pagano, proprio oggi la scadenza fiscale odierna, mi piace sottolineare che quello che chiede Marco è una forma elementare da parte dello Stato, di uno Stato civile, di riconoscere la parità dei diritti, visto che vive grazie ai nostri soldi, anche se noi non contiamo niente, e non è vero che lo Stato siamo noi, lo dico apposta così vi incazzate, ci desse questo banale rendiconto che in paesi civili viene dato, a noi non è stato dato mai. Poi dice Marco, cosa fa l'Unione Europea? Oggi i due numeri che Fiorenza Sarzanini scrive sul Corriere, doveva esserci la relocation, cioè 40.000 richiedenti asilo giunti in Italia e Grecia da redistribuire, ne sono stati distribuiti 7.281. Però noi siamo gli eroi, secondo Juncker, noi siamo gli eroi, però loro non prendono, cioè non rispettano accordi presi. La relocation sono accordi presi dall'Unione Europea, dovevano distribuirli, non l'hanno fatto, però noi eroi. Va bene. Ci accontentiamo di questo. Allora, dobbiamo fermarci, c'è il giornale radio, ci sono gli ascoltatori, poi Oscar, dobbiamo parlare di questo tema che è delicatissimo, anche solo per la vicenda di questo bambino di 10 mesi in Gran Bretagna che oggi di fatto morirà, perché i medici hanno detto soffre di una malattia gravissima e andando avanti la morte è certa e la sofferenza pure, in crescita, e quindi le sentenze, non c'è alternativa. Esatto, le sentenze danno loro ragione, i genitori sono disperati. Sentenze che ricordiamo, 3 sentenze di alte corte britannica e poi corte europea. Però questo insomma spacca le coscienze, questo dibattito sulla vicenda di Charlie Gard. Ne parliamo tra poco. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana storie drammatiche e storie intense al Falco e Gabbiano. Se oggi noi conosciamo e apprezziamo Van Gogh, lo dobbiamo a sua cognata Joanna Van Gogh. Wolfgang von Trips, il nobile che attraverso la sua passione per le auto andò incontro alla tragedia. E poi voliamo sulle ali di carta fino a Verona per l'amore più famoso della storia, Giulietta, con il suo Romeo naturalmente. Un grande poeta, un grande uomo, un grande musicista dalla voce inconfondibile, Leonard Cohen. L'eroica, folle, tragica epopea del bandito Pugachev. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30 al Falco e il Gabbiano su Radio 24. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. In gergo calcistico, quello che sta accadendo all'Italia in Europa potrebbe anche chiamarsi biscotto. E per l'appunto, mentre l'Europa è calda a parole ma fredda a portafogli e azioni concrete, nel frattempo è molto più dinamica e coesa l'Europa del centro nel cercare di fare il biscotto su chi si aggiudicherà le agenzie europee che andranno via da Londra dopo la Brexit. Se ormai si dà infatti quasi per scontato che l'EBA, l'autorità bancaria europea, vada a Francoforte, meno scontato invece è quello che ha denunciato il Sole 24 Ore, ossia un accordo tra Germania, Austria e Repubblica Slovacca per avanzare e rafforzare la candidatura di Bratislava per l'Agenzia Europea del Farmaco, su cui Milano punta moltissimo. Si scrive infatti Bratislava, ma si legge blocco tedesco, Berlino, Vienna e appunto la capitale della Slovacchia. Un blocco che sta facendo scendere e di molto le chance di Milano. A questo punto è necessario che il governo italiano faccia un intervento forte e deciso su tutti i fronti e non abbia sempre una priorità a distrarlo da un'operazione più complessiva. Se infatti si continua ad andare in Europa, una volta per chiedere un allentamento del deficit, un'altra per il salvataggio delle banche, un'altra ancora per i migranti, non si riuscirà mai a avere un'operazione coordinata e congiunta, con il rischio che nel frattempo gli altri il biscotto ce lo facciano veramente. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. 24 mattino. Sono le 9:06, andiamo avanti fino alle 9:30. Caro Oscar, ed è venerdì, non te l'ho neanche detto. È venerdì! Venerdì di passione fiscale. Per me non è proprio giornata. È vero, è venerdì di passione fiscale. C'è Roberto da Cuneo fiscale. No, da Cuneo, buongiorno. Bravo. Roberto, buongiorno. Sì, quello che volevo dire è che riguardo alla questione migranti, a parte tutti i commenti che possono essere umanitari o meno, il fatto che l'Italia possa o meno bloccare i porti è determinato, sarebbe possibile se l'Italia avesse un'autorevolezza internazionale che invece non ha. Noi abbiamo un governo che discute da 3 anni di legge elettorale, un governo di ignoranti che ignorano quello di cui parlano. Beh, questo di ignoranti forse non lo so, immagino che siano in credo realtà... che Minniti non sia ignorante, no, questo, esatto. Comunque distinguiamo, il potere significa avere la competenza e la facoltà tecnica, cioè di attribuzione normativa. Sì, l'Italia ce l'ha e poi c'è la e tra l'altro politica. Si tratta di cambiare, vero, intese sottoscritte, ma di tornare al diritto internazionale. Quindi questo è ciò che definisce la facoltà e il potere. Poi lei fa ragionamenti sulle sue opinioni politiche, ma questo è un altro paio di maniche. Però l'Italia il potere di farlo ce l'ha. Sì, bisogna vedere la volontà politica, ma quella è un'altra questione. Grazie Roberto. C'è Carlo da Milano. Buongiorno Carlo. Buongiorno, avete un ritmo voi due straordinario, vi faccio i complimenti. Grazie. Siete perfetti insieme, veramente. Avete una tempistica degna del miglior teatro greco. Gianni e Pinotto, sono al teatro greco, un'altra cosa. Noi ci mettevamo più Gianni e Pinotto, che hai detto niente, lei ci porta al teatro greco. Vi vedo un po' più seri, diciamo, talvolta shakespeariani. Va bene, Carlo. Sui migrati, voglio dire una cosa, ma... A me sembra l'ennesimo lascito del bomba ad Arignano, cioè nel senso che lui quando andava in giro per l'Europa mi ricordava quelli al bar del mio paese che vanno, tornano, raccontano delle cose della serie, gli ho fatto un mazzo, gli ho spiegato tutto, eccetera, eccetera, tornano, in realtà l'hanno lasciato andare via dicendo sì, hai ragione tu, bravo, e poi alla fine non si combina nulla. In questo devo aggiungere una cosa, se ho 30 secondi. Io vorrei sapere da due bravissimi giornalisti come voi, vi spiegate da dove è nata questa sopravvalutazione clamorosa in questi anni di Re? Cioè, se le contiamo tutte, si è fatto una sequenza di capolavori, tra cui riportare sulla scena amabile ottantenne, che secondo me neanche se ti impegni scientificamente a farne una via l'altra, cioè, ci riesci, eppure godi ancora, secondo me, di una stampa, non dico, cioè, prima impossibile, sì, però è considerato da alcuni ancora uno statista. Vabbè, io insomma, mi domando, Carlo, lei, allora, il suo giudizio è durissimo. Allora Gattuso, tanto caro Gattuso, al dottor Milan, sarebbe da pallone d'oro. Vabbè, adesso Carlo, va bene, la ringraziamo. Durissimo il suo giudizio, non lo so, perché... Sicuramente all'interno del Partito Democratico è stato votato come segretario, ecco questo. No, però lui si riferiva alla stampa. La stampa. Io do una risposta brevissima: 3 flash. Primo, ha animato, sollevato e entusiasmato grandi aspettative, come contestava da fuori i vecchi e le vecchie regole del PD. Il rottamatore, sì, l'innovatore, sembrava oltre l'orizzonte del modernismo socialdemocratico. Questo è stato per anni. Le Leopolde erano questo, con proposte. Lì si diceva Rai cedere 2 canali e uno senza pubblicità. Cioè, c'erano delle signore proposte. Poi è venuto il governo. Il governo all'inizio, secondo me, era abbastanza in linea. Poi sono venuti gli eccessi dei bonus e questo intignamento su un testo mal scritto sia dalla riforma costituzionale che dalla legge elettorale. Lì qualcuno ha iniziato a riflettere, perché non dava retta a chi da fuori, anche riservatamente, gli diceva guarda che state commettendo errori, amari, pagherete, picchierete la testa. Terza fase, non si è più ripreso dal 4 dicembre, questa è la mia opinione. Comunque è vero, nell'informazione ha un grande potere, perché nel frattempo lui però nell'esercizio del governo ha messo in piedi una macchina di controllo dell'informazione durissima, cioè il signor Sensi è un organizzatore di consenso a mano armata dal punto di vista di come è capace di esercitare. Lui non viola la legge, lui fa il suo mestiere per il suo indirizzo politico. Diciamo che basta vedere in Rai che cosa è riuscito a ottenere. In Rai conta tantissimo. Allora, però noi qua dobbiamo affrontare, cambiare in qualche modo pagina, anche registro, perché dobbiamo affrontare un argomento che è doloroso, intanto perché si tratta di un bambino, questo bambino Charlie Gard, che suo malgrado è diventato famoso a 10 mesi in Gran Bretagna, ma anche un po' in tutto il mondo, anche in Italia oggi ne parlano i giornali, e che oggi di fatto morirà perché i giudici hanno stabilito così, perché i medici hanno detto così, perché soffre di una gravissima malattia, ci sono 16 casi al mondo, il destino è la morte certa, e per evitare ulteriori sofferenze i medici hanno detto che bisogna interrompere la sua vita il prima possibile. I genitori erano contrari, sono fortemente contrari, e si è andati per tribunali, caro Oscar. Tra i genitori hanno anche raccolto fondi pubblicamente per consentire di andare negli Stati Uniti a provare altre cose, anche sì, se terapie sperimentali. Esatto. Però i giudici, 4 gradi di giudizio, 3 in Inghilterra, una Corte Europea dei Diritti Umani, è andato torto ai genitori, è andato ragione ai medici. E dunque oggi si stacca la spina, c'è questo termine anche un po' brutale, cioè si stacca il respiratore che lo tiene in vita e questo bambino morirà. Ora tutti si interrogano dove sia il limite di fronte a una malattia del genere, dove debbano intervenire i medici, dove invece sia il volere dei genitori in qualche modo da essere rispettato, loro che dicono ci hanno lasciati soli, non ce lo lasciano neanche il weekend, eseguono tutto il venerdì, mentre alcuni parenti avrebbero almeno voluto vederlo l'ultima volta. Insomma, sono tutti temi etici molto molto complicati che vogliamo affrontare con Emma Fattorini, che salutiamo, insegna storia contemporanea alla Sapienza. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno. Salutiamo anche il professor Carlo Casonato, che insegna diritto costituzionale comparato a Trento, fa parte del Comitato Nazionale di Bioetica. Buongiorno professore. Buongiorno. Le possiamo subito chiedere un parere? Lo so che è brutale dire da che parte si sta, ma insomma bisogna anche mettere così dei punti fermi, cioè... È il diritto dei medici quello che deve prevalere, è il diritto dei genitori. Il diritto dei medici, che dichiara di fondarsi sul diritto del bambino, chiaro, evitare chiaro, sofferenze. Evitare sofferenze al bambino, ovvio. Casolare. Sì, ma appunto sono questioni molto difficili. Non c'è evidentemente una risposta che valga per tutti i casi. Io penso che quando ci sono casi così drammatici bisogna andare a vedere i criteri che possono indicare qual è il miglior interesse nel caso specifico. Questo è un caso, l'avete già ricordato voi, davvero drammatico. Direi che ci sono 3 punti su cui i medici e poi i giudici hanno deciso. Il primo punto è che si tratta di una malattia gravissima, terribile, costringe il bimbo di 10 mesi a trattamenti di sostegno vitale come la ventilazione meccanica, e quindi davvero siamo di fronte a una malattia eccezionale dal punto di vista della gravità. Il secondo punto, ne avete accennato voi, è il carattere sperimentale della malattia che i genitori dovrebbero fare. Sì. E il problema è che non è vero che sia una cura sperimentale. Mm-hmm. Questo trattamento che si vorrebbe fare negli Stati Uniti non ha nemmeno raggiunto la fase di sperimentazione preclinica, per intenderci. Sì. Non voglio essere brutale, ma per intenderci, questo trattamento non è stato ancora sperimentato coi topi, e forse sperimentarlo con un bimbo, ecco, su questo i giudici e i medici sono stati d'accordo nel ritenere che sarebbe stato una... Poi professore, forse c'è un punto fondamentale, cioè che questa malattia gravissima porta a ineludibili sofferenze, questo almeno secondo quello che dice la scienza, ecco, e quindi si vogliono risparmiare queste sofferenze al bimbo. Certo. Questo è proprio su questo elemento della sofferenza sono stati d'accordo i 4 esperti, fra i maggiori esperti di questa malattia, che sono stati convocati fra l'altro dai giudici britannici, e tutti e 4 gli esperti hanno detto che ogni giorno di vita può essere un giorno di sofferenza. Allora in questi casi purtroppo ci si può chiedere di chi è l'ultima parola, se dei medici o dei genitori. Direi che purtroppo in questi casi l'ultima parola è della malattia, e la medicina deve riconoscere che è limitata nell'affrontare queste malattie. Professoressa Fattorini, oggi mi ha colpito Avvenire apre proprio con questa notizia: niente politica, niente migranti, niente. È una storia, insomma, che ci proviene dall'Inghilterra, ma che interroga tutti noi, perché tutti noi ci poniamo di fronte a questa eventualità, cosa bisognerebbe fare. Lei che pensa di questa decisione inglese? Io penso che ancora una volta siamo di fronte, come diceva anche prima, tubercolosi ha un caso estremo, non solo perché sono pochi casi di quella malattia, ma perché arrivare a questo punto con 3 gradi di sentenze, con genitori così legati, con questo attaccamento che loro tengono, accanimento dalle sentenze, e con questa un po' freddezza che si vede in questa gestione, che in realtà segna un fallimento, secondo me, alla fine delle relazioni, di un tessuto di comunicazione, di interrelazione, insomma una solitudine vera che però è stata buttata come una palla di flipper su questa rete mondiale. Ecco, è un caso molto molto estremo, e che però, come spesso succede, polarizza anche le posizioni estreme, quindi con moltissima emotività, e quindi di qua o di là sì e no, e rischia di essere un precedente o comunque di aprire strade su altre cose che sono meno una forma oggettiva di eutanasia quasi obbligatoria, pur considerando che ci sono mille ragioni per cui è evidente che questo piccolo bambino non ha nessun futuro, e quindi c'è una sorta di disperazione, un'accettazione da parte dei genitori che è del tuttissimo comprensibile. Però fa molto effetto vedere come un dolore per definizione incommensurabile, non c'è niente di più atroce, no? della morte di un figlio e di doverlo decidere in queste condizioni, c'è una cosa, diciamo, indicibile per la sua gravità, e che diventa talmente dicibile che ci sono manifestazioni, viene urlato, ecco, io trovo questa la cosa più inquietante. Se poi facciamo un discorso invece giuridico razionale, allora da un punto di vista, diciamo, dello stato della situazione, quello che abbiamo sentito è, l'avete detto bene, il punto è però di capire il rapporto tra legge, medicina e, sì, e dolore dei genitori, cioè questo crea un precedente un po' strano, un po' particolare, perché c'è la funzione della CEDU che ribalta, diciamo, il suo impianto, che di solito è quello di vedere dove gli stati nazionali tradiscono il diritto dell'autodeterminazione, come è successo con la GPA, per esempio, con l'utero in affitto, e invece in questo caso conferma un intervento dello Stato su queste scelte, che nega qualsiasi principio liberale di autodeterminazione. Beh, ma perché lei ha parlato anche di rischio di derive eutanasiche in qualche modo, cioè sì, di apertura? Ma perché no, in questo caso è, come dire, se interpreto bene quello che hanno scelto i medici, è una evitare un accanimento di fronte a una fine certa e con sofferenze che sarà... Certo, infatti è questo che è tutto da vedere, se è così e come è probabile, perché se c'è una soglia di dolore che non si può in questo caso neanche, come si può dire, manifestare, quantificare, essendo così piccolo, il fallimento si tratta della relazione con i genitori, che devono in questo caso essere considerati incapaci di intendere e di volere, perché la scelta dovrebbe stare a loro, nel senso che chi sostiene che non si dovrebbe staccare la spina, ma ormai è tutto deciso, sostengono che si poteva accompagnare in termini di un dolore, quindi di una cura palliativa. Cioè è un estremo in tutto in questo caso, e quando si arriva al no, cioè si, e poi c'è sempre la questione che finisce esasperando questi casi estremi di legiferare, per non dire schierarsi sull'emotività collettiva, su questi modelli, su questi esempi, sì, che sono che non sono reali, chiaro, sono, perché questi sono 16 casi di questa malattia, ma quanti casi conosciamo di bambini nati prematuri, di bambini con malattie gravissime, che hanno un decorso non così conflittuale, tremendamente doloroso, ma elaborato anche nel silenzio, che è la luogo, diciamo, più consono, in cui più facile, insomma, 3.000 virgolette, cioè più possibile per elaborare uno strazio del genere, invece viene... Sì, lei dice che non si possono utilizzare questi casi estremi per legiferare. È sempre un rischio, no? Me l'abbiamo visto con l'Englaro. Allora, cioè, sono casi che dopo... Però, Però ecco, io sono tanto d'accordo con quello che dice la professoressa Emma Fattorini, che infatti noi stiamo parlando in questo caso di un dibattito che diventa pubblico perché ci sono impugnativi in nome di diritti da parte della famiglia, rispetto a qua nessuno penserebbe mai di legislare su patologie sulle quali oltretutto non c'è neanche una letteratura scientifica sufficientemente estesa tanto da indicare indirizzi né di terapia con qualche speranza né di allontanamento semplicemente del tempo di morte attesa, perché appunto le casistiche sono così limitate che tra l'altro è l'eccezione nell'eccezione anche da questo punto di vista. Però sì, ecco, non stiamo parlando di legislazione, stiamo parlando proprio di un caso estremo. Io devo dire la verità, io mi trovo in estrema difficoltà a dire qualunque cosa, perché io se mi metto nei panni della famiglia posso capire, cioè li posso capire fino alla fine. Dall'altro il mio cervello dice, però per quello che sappiamo, per esempio loro dicono almeno fatecelo portare a casa, sì, e fatecelo portare a casa, non solo, siccome lui le funzioni vitali non ce l'ha, fatecelo stare qui il weekend, che molti parenti vorrebbero vederlo, invece però, faranno venerdì. Tutti i particolari su cui secondo me anche la famiglia a un certo punto ha iniziato a montare una strategia, giustamente, io li posso capire, mediatica, che io però non intendo seguire né da una parte né dall'altra, dico sì che il caso è estremo. E come al solito ci consegna nel suo estremismo un punto di fondo che c'è sempre su queste questioni qua, cioè su il diritto di staccare la spina, sempre, perché questo più o meno c'è chi conosce quello che succede negli ospedali. Negli ospedali c'è qualcuno che, anche senza che ci sia la legge eccetera eccetera, come devo dire, sonda come avviene nelle relazioni umane, quindi non tramite avvocati, sonda il consenso, la non opposizione, il grado di consenso, la non opposizione, a volte staccare la spina. Ecco, questo Alessandro è quello che, nell'esperienza un po' diceva per l'ospedale, e quella è la vita vera. Anche questa è vita vera, però questa rappresenta troppe eccezioni per farne. Eh sì. Però professor Casonato, cioè, si capisce qual è il limite nel quale poi, perché qui c'è un conflitto nel caso inglese, cioè proprio evidente, i genitori che vogliono la cosa e i medici che invece in nome del diritto ne hanno ottenuto un'altra. Sì, anche questo è un elemento eccezionale, perché nel 99% dei casi medici e genitori sono d'accordo. Esatto, voglio dire, esattamente. Ecco, ma in quell'1% come in questo caso, cioè perché deve prevalere il, sulla base di sentenze, il diritto dei medici su quello naturale dei genitori? Sì, ma io direi che il diritto in questo caso non è così freddo. Cioè, cosa hanno fatto i medici e cosa hanno fatto i giudici? I medici hanno cercato di ricostruire sulla base degli elementi che già abbiamo visto qual è il migliore interesse di quel bimbo, che è quello di, alla fine, evitare una sofferenza di fronte a una morte imminente. E i giudici a questo punto non hanno ordinato o negato nulla, hanno cercato di verificare se il percorso decisionale, chiamiamolo così, attraverso il quale i medici hanno raggiunto la loro decisione, è corretto. E quindi, diciamo, in qualche modo il diritto, è bene che sia così, entra in punta di piedi su queste tematiche. Sì, cioè non è che hanno detto, non è che hanno detto eseguite quello che volete, ma dice avete fatto tutta la procedura medicalmente in maniera corretta? Sì, e quindi conseguentemente avete ragione. Perché i giudici raramente, diciamo, hanno una laurea in medicina e quindi lasciano decidere a chi ha la competenza per fare quello. La cosa che ha fatto per esempio la Corte di Strasburgo è andata a verificare se sono stati coinvolti i genitori, e da questo punto di vista effettivamente i genitori sono stati coinvolti nel cercare di raggiungere assieme una decisione. Per esempio i giudici britannici hanno addirittura chiamato il medico sperimentatore statunitense che avrebbe voluto fare questa cura sperimentale per sentire le loro ragioni. Diciamo, quello che può fare il diritto da questo punto di vista è mettersi un po' a margine, sì, dal punto di vista del contenuto della decisione, e verificare che tutti i passaggi logici e razionali siano stati seguiti. E questo mi sembra fatto. Sentiamo Paolo, ci chiama da Pistoia. Non è facile intervenire su un caso che ovviamente non si conosce, leggiamo dai giornali. Paolo, che dice? Pronto? Dunque, sì, buongiorno. Paolo, prego. Sì, buongiorno. Chiamo sia da laico che da credente e volevo semplicemente fare un'osservazione che forse è all'atere della discussione che state facendo, però volevo far notare quello che da credente è questo triste silenzio assordante di questo Papa su questa vicenda, che comunque, pur limitata nel numero, no, come avete fatto giustamente notare, è comunque simbolica, secondo me, è simbolica quanto alla difesa della vita e alla difesa anche di valori che dovrebbero essere, secondo me, quelli della Chiesa. Cioè, ci troviamo di fronte appunto a questo Papa che parla su tutto, parla sui giornalisti di Sky, parla sui giornalisti di Mediaset, parla, fai un giorno il sindacalista, l'altro giorno il politico, poi su fatti come questi legati alla vita, legati a quelli auspicava, che io... Lei auspicava una parola, anche perché un appello c'è stato tra le varie persone a cui hanno fatto un appello pubblico i genitori, c'è stato anche il Papa. Insomma, Paolo La Pistoia lamenta la mancanza di una parola del Papa su questo. Giuseppe da Lecce, buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Non mi riesco ancora a spiegare come mai si possa togliere la patria potestà ai genitori. La decisione spetterebbe ai genitori, in quanto non penso che abbiano qualche deficienza psicologica per decidere se far continuare a vivere il figlio o meno, anche con atroci sofferenze. E quindi non me lo spiego questo dritto da parte dei giudici a togliere la patria potestà da un punto di vista legale. Vabbè. Però Giuseppe, il punto qui è una semplificazione nostra che vi induce a un'idea sbagliata. Il problema non è il diritto dei giudici, il problema è che i giudici, nell'essere aditi, cioè dopo che gli arrivano una richiesta di pronunciarsi da parte della famiglia, interpretano il diritto del più debole, cioè del bambino. Questo è il fondamento del pronuncio, non è che si permettono loro di dire, ecco, il fondamento è il diritto del bambino rispetto al diritto dei genitori. Questo è i giudici intervengono su questo, poi potete avere ovviamente le opinioni più diverse, però è questa, le due parti in causa sono queste. Esatto. In ogni caso, noi ci dobbiamo fermare qui ringraziando il professor Carlo Calzonato, ricordiamo fa parte anche del Comitato Nazionale di Bioetica, e Emma Fattorini, che insegna la Sapienza e anche senatrice del Partito Democratico. Questo no, l'abbiamo detto volutamente alla fine, perché ti ricordi, Oscar, se uno dice senatrice sembra quasi che intervenga come senatrice. No, in questo caso è una grande pensatrice, professoressa, storica cattolica, eccetera, eccetera. Noi la chiamiamo per questo. Poi siamo anche contenti che gli italiani abbiano scelto una persona di questo livello. Se lo dice l'ascoltatore, questa cosa vincola. Dice allora parla perché noi PD, non aderiamo all'interpretazione, per cui quindi talvolta tendiamo a dire professore invece che senatore, e la ringraziamo. Ma io spero che Emma non sia offesa, so che non sia offesa. No, assolutamente. Allora ringraziamo Lorenzo Nespoli, Chiara Compagnoni, Elisabetta Fusconi in redazione, e io devo andare a pagare le tasse, e Peter Vescapè e anche Carmelo Laricella in regia. E tu devi andare a pagare. E poi, eppure da padre che non conta un caso. Pensa come sono le grogge. Ecco.